Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi andiamo a parlare di carte Poste Pay, dei Poste Italiane. Sì, l'Adico è da un po' di tempo che si occupa di questa problematica e, come detto, si rivolge alle carte prepagate delle Poste, ma anche alle carte bancomat clonate in generale, e su quello che è stata un'attività che ha impegnato molto i nostri uffici nel 2014 abbiamo voluto fare un po' quello che c'è stato un censimento di tutti i soldi che le persone che ci sono in rete all'Adico sono riusciti a ottenere come restituzione e quelle che sono ancora le posizioni aperte, con un dato che mi preme subito anticipare, che le pratiche di cui l'Adico ha gestito fino ad oggi il 100% ha ottenuto risultati positivi, quindi tutte le persone fino ad oggi sono state rimborsate fino all'ultimo centesimo. Certamente non per merito di favoritismi o di cose dovute, ma garantisco per un'attività molto intensa che i nostri uffici hanno e continuano a fare in merito a questa grossa problematica. Ecco, questa cosa che mi dici mi lascia un po' perplesso, nel senso che se una carta bancomat viene clonata mi verrebbe normale pensare che la banca ridia i soldi che sono stati prelevati ingiustamente dal conto corrente della persona, no? Invece mi sembra di capire che proprio così automatica la cosa non è. Non è automatica, perché innanzitutto bisogna pensare sempre che quando si parla di clonazione il fenomeno è molto più diffuso di quanto pensiamo, ma anche complesso, a tal punto che la clonazione di solito è non è altro che l'utilizzo di un dispositivo che carpia il nostro bancomat e che poi con una tastiera o con una micro telecamera scopre il nostro PIN. Oppure nel caso delle Poste Pay sono persone che non avendo fatto certamente giocate puntate su certi siti d'azzardo si sono visti sottrarsi parecchie centinaia se non migliaia di euro dal proprio conto. Però è anche da dire che su quello che è la tua osservazione lecita di cui la banca è tenuta ad essere responsabile e il primo ente a cui rivolgersi quando accadono queste cose, dopo previa chiaramente denuncia o alla polizia postale, ai carabinieri, alla polizia, qualora che appunto abbia ottenuto la clonazione tramite internet o tramite sportello, bisogna fare, è da dire che le banche è vero che da un lato sono le responsabili perché comunque custodiscono i nostri soldi, ma è anche vero che loro tendono a giustificare che quanto accaduto è determinato dalla negligenza del correntista. Ecco, quindi bisogna dimostrare di essere delle persone attente, che insomma, se gli è stato portato via il PIN o clonata la carta bancomat non dipende dalla negligenza dell'utente, ma dalla casualità, insomma, dalla capacità di qualche buon ladro, insomma, nel riuscire a prendersi questi dati. Certo, sentate così, anche se, come ripeto, quando accadono queste cose la prima cosa è da fare una denuncia ai carabinieri, insomma alle autorità, e poi la seconda cosa rivalersi subito sulle Poste. Però nel caso particolare noi abbiamo voluto fare proprio un censimento, come detto, di quelli che sono i casi che abbiamo trattato. Abbiamo preso un po' Venezia per comodità, ma certamente non è che se andavamo da un'altra parte troveremmo dei dati diversi, ma per quanto riguarda l'attività su Venezia i dati sono un po' questi. Allora, 36 sono le persone che nel 2014 si sono rivolte all'Adico, 32.438 euro è la cifra complessiva che c'è in ballo, si tratta di una cifra di addebito che varia tra i 130 e i 3.500 euro, quindi con una media di circa 900 euro a persona. Ad oggi l'attività dell'Adico ha permesso di restituire 22.109 euro ai nostri utenti, mentre rimangono ancora una dozzina di posizioni aperte per un ammontare di oltre 10.300 euro, che comunque sono tutte concluse ma hanno chiaramente delle tempistiche che certamente a gennaio e febbraio non ha permesso la restituzione, ma che sicuramente nell'arco dell'anno si chiuderanno e, come detto, tutte positive. Continua l'attività nel 2015, ce n'è stata anche nel 2013, e i casi gestiti complessivamente da fuori Venezia ammontano circa un centinaio. Mi preme anche evidenziare come, dopo un ostruzionismo iniziale, a fine Poste ha dimostrato veramente, e soprattutto anche grazie ai referenti territoriali, una buona collaborazione a risolvere queste pratiche e a chiuderle anche alle svelte, anche se purtroppo poi le tempistiche di rimborso, a nostro avviso, rimangono ancora una criticità, perché alla fine ci vuole sempre qualche mese e non qualche settimana, come magari molte persone sperano quando si trovano coinvolte in queste vicende. Ecco Carlo, noi parliamo appunto di clonazioni delle carte bancomat, delle postamat o cose di questo genere, ma poi c'è la tecnica del phishing, che è quella di mandare una mail alla persona chiedendo magari di reinserire i dati per qualche motivo di accesso alla nostra internet banking e alla nostra banca online, e poi da lì, una volta rubati i dati, possono accreditarsi i soldi o addirittura proprio svuotarti il conto corrente. Questa certamente è una truffa che è molto comune, purtroppo è anche quella forse maggiormente diffusa. Noi diciamo sempre, anche come consiglio, a prescindere, quello di dover navigare sui siti sicuri ed evitare comunque di diffondere i nostri dati o i numeri delle carte di credito, cercare comunque di attivare dei comportamenti anche corretti, come possono essere i servizi di alerting SMS che mandano un messaggio cellulare, e quando ci sono delle operazioni ricordarsi che i truffatori prediligono le carte che sono abilitate per i pagamenti anche oltre frontiera. Poi c'è sempre l'aspetto molto delicato che riguarda poi il discorso delle ricevute, che quando si fanno dei prelievi è meglio non lasciare in giro, perché comunque ci possono essere sempre degli indizi che aiutano chi è truffatore a risalire un po' al nostro codice utenza. Cercare sempre di verificare con una certa frequenza la lista movimenti, avere sempre in memoria i numeri utili qualora che ci troviamo coinvolti in queste situazioni per bloccare la carta, cercare comunque di stare sempre attenti quando capitano queste cose, di non aspettare mai lunedì, perché normalmente nel weekend si possono fare tante cose e addirittura si può arrivare a svuotare un conto corrente e scoprire dopo qualche giorno. Esatto. Certamente comunque tutti i comportamenti che bisogna sempre tenere un po' a mente. Ecco, giustamente le banche sono chiuse il sabato e la domenica normalmente, quindi sono i giorni in cui i ladri vanno a toglierti i soldi dal conto corrente, sperando appunto che i tuoi eventuali SMS di alerting non ti arrivino, non li vedi, e che passi il tempo, e così poi in un paio di giorni ti ritrovi pulito completamente, senza più un soldo in banca. Vabbè, insomma, interessante questa cosa. Ricordiamo sempre che l'Adico quindi è a disposizione, c'è il sito associazionedifesaconsumatori.it con tutti i numeri di telefono e quant'altro. Ringrazio il presidente Carlo Garofolini per essere stato con noi. Grazie a te Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.